Sì. Io do il buongiorno a tutti, mi associo ai ringraziamenti e ringrazio il dottor Covone per dare questa grande possibilità ai miei ragazzi di parlare di altro. Io stamattina mi sento a casa mia, non tanto su questo palco dove sono anche un po' a disagio, ma per quanto riguarda la materia. Io sono geologa, per cui molto più ancorata alla terra nei miei studi, però noi guardiamo al cielo, guardiamo le stelle, per cui la ringrazio se vorrà dare ai miei studenti la possibilità di capire quello che ci circonda. Bene, grazie mille davvero. Grazie. Ragazzi, grazie a voi. Grazie a lei. Rompio io ghiaccio? Vai, inizio io. Allora, grazie professoressa, soprattutto grazie a voi ragazzi e ragazze per essere venuti qui. Che bel colpo d'occhio da qua sopra. Anch'io non è che mi trovo tanto a mio agio qui sopra, però mi fa molto piacere parlare della mia ricerca scientifica, che è nel campo astronomico, e delle implicazioni che ha per tutti quanti noi, perché io quando ho scritto questo libro non volevo parlare solo agli scienziati, non volevo parlare solo ai ragazzi che vogliono diventare scienziati, il mio scopo non era nemmeno quello di invogliarli a fare scienza principalmente, ma era quello di comunicare il senso della ricerca scientifica, il senso di questa grande passione umana per tutti quanti noi. Perché se noi scoprissimo che c'è un altro pianeta simile alla Terra là fuori, questo cambierebbe la vita anche delle vostre nonne, per dire. Cambierebbe il modo in cui noi guardiamo noi stessi. Cambierebbe la consapevolezza che noi abbiamo di noi come specie umana e anche come individui, così come l'ha cambiata alcune altre grandi scoperte scientifiche l'hanno cambiata, tipo la scoperta del DNA o della rivoluzione copernicana. Di questo parliamo. E poi anche per un altro motivo, c'è qualcosa di profondamente umano appunto nella ricerca scientifica che riguarda tutti quanti noi, così come c'è qualcosa di profondamente umano che riguarda l'arte, per esempio. Voi non leggete L'infinito di Leopardi per diventare poeti, anche forse, però non per questo. Non ascoltate la quinta di Beethoven per diventare musicisti, anche se qualcuno di voi lo fa per questo motivo. Ascoltate o leggete queste opere perché sapete che lì dentro c'è qualcosa di profondamente umano che parla a tutti quanti voi. E secondo me vale qualcosa di simile anche per la ricerca scientifica. Quello che stiamo facendo noi collettivamente come scienziati, membri della nostra specie, oggi nell'affrontare le sfide dell'ignoto, nel capire un pochettino di più cosa c'è là fuori, c'è qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Quindi sapere, non dico i dettagli tecnici della ricerca scientifica, ma le scoperte più importanti, le sue implicazioni, è qualcosa che dobbiamo sapere tutti quanti noi in quanto membri della specie umana. Quindi questo è il motivo fondamentale per cui ho speso un po' di anni della mia vita, il mio primo libro, non sapevo scrivere prima, scrivere un altro mestiere. Era questa l'ambizione, l'obiettivo che mi ero dato, quello di stabilire un dialogo con tutti gli altri che non conoscono il mondo della scienza. E niente, vogliamo fare una chiacchierata qui con, certo, con Francesco, con voi. Noi qui dialogheremo con la professoressa, con Francesco, ma soprattutto con voi, quindi se ci sono domande, interrompeteci, voglio dire, non abbiamo uno spettacolo da portare, è un dialogo. Dovrete interromperci. Sì. Siete voi i protagonisti oggi insieme a noi, quindi dovrete interromperci. Allora, è la terza volta che io e Giovanni facciamo questa presentazione in Toscana e oltre a divertirci ci emozioniamo molto, perché troviamo all'interno delle varie platee in cui facciamo queste iniziative, grande sensibilità. Perché? Perché il mondo in cui viviamo sta andando all'aria, sostanzialmente. Vediamo, accendiamo il telegiornale o leggiamo un giornale, una notizia sullo smartphone, cosa vediamo? Drammi, tragedie, guerre. Ci avevamo promesso che le guerre sarebbero state estinte dalla storia e invece ci ritroviamo a un capitolo della storia in cui la guerra rientra addirittura in Europa. Quindi prendere un libro in mano dal titolo Altre Terre è una boccata di ossigeno, perché uno dice, Madonna, ma come, in che mondo sto vivendo e che cosa mi si prospetta davanti? È un po' la sensazione, almeno per quanto mi ha riguardato, quando Dante insieme a Virgilio escono da tutto quel demonio che c'era nell'inferno e dicono, per fortuna rivediamo le stelle, ci mettiamo a rivedere le stelle. Noi come Centro Filippo Buonarroti, la riflessione che abbiamo fatto anche l'ultima volta che ci siamo visti a Firenze, organizziamo moltissime iniziative che hanno un taglio storico, sociale, filosofico, ma anche scientifico. Ma era la prima volta con Giovanni che abbiamo deciso di intraprendere la strada scientifica, proprio delle esplorazioni di altre terre, cioè nemmeno del sistema solare, correggimi se sbaglio, certo. Oltre il sistema solare, quindi oltre il campo, diciamo, potremmo dire nell'ignoto totalmente. Perché abbiamo intrapreso questa strada? E poi mi ricollego alle prime domande che ti volevo appunto fare stamattina. Perché è inevitabile che in una situazione storica come viviamo adesso, e il genere umano che si sta, diciamo, per certi versi sta tornando a farsi la guerra, a militarizzare lo spazio, il dibattito oggi se i satelliti di una potenza o di un individuo privato possono condizionare la politica internazionale. E questo tipo di ragionamento, di guardare oltre la Terra, ci aiuta a ragionare come specie umana, non come stati, come interessi privati, come interessi lobby e quindi individuali, uomini contro uomini. Guardare a quello che sarà il destino dell'umanità, alla ricerca di altre terre, perché lo sappiamo che presto o tardi, tardissimo, ma questa terra si esaurirà, non sarà più abitabile a un certo punto. La specie umana, se vorrà sopravvivere, dovrà per forza intraprendere questo cammino. Ma come potrà farlo se non avrà messo ordine in casa sua? Come potrà la specie umana veramente guardare alla sua sopravvivenza se non ragiona come specie? Cioè se non ragiona con un unico intelletto? Questa società non ci dà le condizioni di poterlo fare, cioè è evidente, diciamo. Quindi la dovremo cambiare. Per trovare altre terre, altri mondi, dovremo cambiare il mondo. Ecco perché è importante che voi interveniate, perché a cambiare il mondo dovete esserci per primo voi. Poi anche noi, perché ancora un po' di... Ti vuoi scaricare di una responsabilità. No, un po' di filo ancora da tessere ce l'abbiamo, diciamo. Però prima di tutti siete voi. Quindi andiamo dritti, diciamo, al punto. L'ultima volta che ci siamo visti mi è interessato molto il discorso in cui ci hai spiegato come si va a caccia di nuovi pianeti e come, diciamo, fino all'altro ieri, per me, c'era una sorta di diffidenza nel trovare altri mondi abitabili simili a Terra. Ci puoi parlare di questo? Sì, come cerchiamo altri pianeti? Potrei incominciare... Sì, parliamo di pianeti intorno ad altre stelle, sottolineato bene, quindi oltre il sistema solare, oltre il giardino di casa nostra. Cercare mondi intorno ad altri stelle è stato il sogno da Lucrezio Giordano Bruno, e noi siamo fortunati perché siamo parte della prima generazione, la mia, poi è venuta la vostra dopo, che può realizzare questo sogno con strumenti scientifici. Il sogno, la fantasia degli infiniti mondi è passato dal campo della speculazione, dell'arte, della fantasia, della filosofia al campo della scienza. Li possiamo osservare, li possiamo cercare. E io sono stato fortunato ad essermi laureato negli anni in cui venivano scoperti i primi di questi mondi, alla metà degli anni 90. E la prossima generazione sarà ancora più fortunata, perché avrà il compito, tra i tanti compiti scientifici, tra le tante avventure scientifiche a disposizione, quella di cercare la vita in questi mondi, perché è possibile che siano abitati. Come si cercano? Potrei incominciare a dire come non si cercano, come non si trovano, perché uno immagina, ci sono stelle, punto un telescopio, fotografo il pianeta intorno a quella stella. No. Non riusciamo ancora a fotografarli direttamente, almeno non i pianeti piccoli come la Terra. Qualche pianeta, qualcuno di essi, molto grande, molto lontano dalla sua stella, sì. Per darne un'idea, io ho preparato un po' di immagini, quindi le scorro velocemente per arrivare al punto di cui volevo parlarvi. Questa immagine, questo. Ecco, per dare un'idea di quanto sia difficile... È bello qua, si vede bene. Cercare pianeti. Allora, questo è Saturno, un compagno nel nostro sistema solare. Questa è una foto ripresa dalla sonda Cassini della NASA quando orbitava intorno a Saturno negli anni 10 di questo secolo ed è vista di spalle. Questo è il lato oscuro notturno di Saturno, quindi dall'altro lato c'è il Sole, la Terra e gli altri pianeti interni, quindi una bellissima immagine. E ci sono alcune stelle di background sullo sfondo casuali, ma non tutte quelle stelle sono anonime. Quel puntino lì è la Terra vista da Saturno. La Terra vista da 1,5 miliardi di chilometri di distanza, da vicino casa. Ed è già da così vicino, perché siamo nello stesso sistema solare, la Terra è tutta lì, un puntino, un poco più di un pixel. Quindi immaginate di cercare lo stesso pianeta, un pianeta simile al nostro, la Terra, non da così vicino, ma osservarlo a miliardi di chilometri di distanza, miliardi di chilometri di distanza, ad anni luce. Diventerà inosservabile, impossibile. E poi questa immagine è bella proprio perché scientificamente non ti dice granché. Cioè sappiamo che la Terra è un puntino, ma vederlo lì realizzato è un'altra cosa. E se vuoi, questo sintetizza molto del discorso, delle parole che dicevi tu. Vai a cercare lì sopra confini, separazioni, tutte le storie che avete letto, che avete studiato, tutte le cose che avete amato, ma anche tutte le cose che avete odiato, sono tutte là sopra, in quel puntino. Questa è un'immagine carina, se la cercate ha un titolo, si chiama Il giorno in cui la Terra sorrise, The Day Earth Smiled, 19 luglio 2013, credo. C'eravamo tutti quanti, chissà cosa stavamo facendo, ma stavamo su quel puntino. E infatti fu organizzata dalla NASA come modo anche pubblicitario per dire sorridete quel giorno, ciao ciao, stiamo là sopra, ci facciamo un selfie dallo spazio profondo. Ecco, quindi è difficile cercare pianeti, non li puoi fotografare, devi trovare altri metodi indiretti per cercare pianeti. E qui si apre tutta una casistica su cui non vorrei addentrarmi troppo, vi dico soltanto quello che cerco io, come li cerco io. Con le ombre, non potendo vedere la loro luce, vedo la loro ombra. Se questo microfono fosse una stella lontana osservata dal vostro punto di vista, se un pianeta orbita dal vostro punto di vista davanti alla stella, periodicamente vedrete non il pianeta, ma la luce di questa stella diminuire ad ogni giro, di pochissimo. Un pianeta come la Terra fa diminuire di una parte su 1,000, di una parte su 10,000 circa la luce della sua stella. Quindi diminuzioni molto piccole, periodiche. Quindi non è un'idea semplice, ma la sua realizzazione pratica non è banale. Perché dovete osservare, se volete scoprire la Terra da lontano, dovete osservare per più anni il Sole e una volta all'anno notare che diminuisce di una parte su 10,000 la sua luce. È una bella sfida, ma si può ottenere qualcosa. E siamo riusciti a scoprire qualche migliaio di pianeti. Abbiamo scoperto quasi 6,000 mondi là sopra. Ma la cosa interessante è che abbiamo capito che ci sono più pianeti che stelle. Poi dopo entriamo nel dettaglio di cosa si può capire, cosa si può osservare, cosa si può intendere da queste osservazioni indirette, da queste e da altre. Però volevo aggiungere che nel mio libro doveva esserci un punto interrogativo. Altre terre? Perché se esistono o no altri pianeti simili alla Terra, ancora non lo sappiamo con prova approvata. La mia risposta, se mi si domanda esiste un pianeta come la Terra, ci credi? La mia risposta sarebbe perché no. Sarebbe la stessa risposta che dava Epicuro. Epicuro, parliamo più di 2000 anni fa, come sapete, in una lettera ad un amico sintetizzava la sua filosofia del mondo, la sua filosofia naturale, Epicuro della scuola atomista. Quindi lontano dalla scuola aristotelica che pensava un universo chiuso, un solo mondo abitato al centro. Epicuro era convinto che l'universo è infinito. Era convinto che l'universo è infinito ed era convinto di una cosa che per oggi è normale. La materia è universale. La stessa materia di cui siete fatti voi sono fatte le stelle. Gli stessi elementi chimici. E aveva ragione. E le leggi della natura sono universali. Non usava questa espressione perché non aveva una concezione matematica delle leggi, ma la intendeva così. E se le leggi sono le stesse, se la materia è la stessa, e se l'universo è infinito, perché no? Lui lo dice proprio in questo modo: non c'è nulla che possa impedire l'infinità dei mondi, mondi come il nostro, non migliori, non peggiori. E questo, se ci pensate, è detto 2000 anni fa, oltre 2000 anni fa, prima dei telescopi, prima di un qualunque formulazione matematica sperimentale della scienza, e di una profondissima intuizione. E oggi noi abbiamo verificato molte delle cose che diceva Epicuro. Sappiamo che le leggi della fisica sono universali. Come si chiama la legge di gravitazione di Newton? La legge di gravitazione universale. A proposito, le altre leggi della fisica sono universali? Non è un'interrogazione, però è veramente... Sono universali? Non ho capito? Non tutte. E quali no? Giusto perché è interessante la risposta che mi hai dato. No, per farla breve, sono tutte universali le leggi della fisica. Magari sono approssimate, ma anche universali. Non è contraddittorio questo, eh? Ma solo quella di Newton si chiama universale perché fu tale la meraviglia di capire che la stessa legge che vi fa cadere la mela in testa è quella che fa muovere le stelle. E vabbè, quello è l'amore, diceva Dante, però anche la gravitazione. Fu tale la meraviglia che la chiamarono universale. Poi dopo capirono che tutte le altre leggi sono universali. Sappiamo che la chimica è universale, aveva ragione anche su questo Epicuro. Noi non sappiamo ancora se la biologia è universale, e questo spetta alla vostra generazione di intenderlo, di capirlo, di verificarlo. Per ora la biologia è una scienza parrocchiale, se vogliamo usare un paradosso, perché riguarda solo l'istanza terrestre. Se troviamo vita su Marte, Venere e altri pianeti lontani, sarà basata sulle nostre stesse leggi? La chimica, la biochimica del carbonio avrà la doppia elica di DNA? Boh. Nessuno lo sa, c'è un grande boh. E quindi quello è uno dei compiti che vi spetta. E molto del, diciamo, del programma nostro di ricerca è tracciato, nascosto nelle righe di Epicuro, a mio avviso. Posso chiedere? Sì. Cioè, mi dispiace. A questo punto vorrei sapere, partendo da questa riflessione, ma abbiamo delle evidenze oggettive, qualcosa che sia stato trovato che ci possa far pensare che effettivamente c'è vita altrove? Abbiamo. Non abbiamo prove di vita. Certo. Di vita no. Per scoprire la vita siamo andati su Marte, per esempio, non abbiamo trovato nulla di vivente, almeno per ora, forse non abbiamo cercato bene. Secondo me ci sono altri luoghi del sistema solare più promettenti e prima della fine vorrei mostrarveli, perché potrebbero riguardarvi da vicino. Quindi, quando osserviamo pianeti lontani, possiamo cercare evidenza non solo di acqua liquida, ma ad esempio di ossigeno molecolare, O2, perché l'ossigeno molecolare, da quello che sappiamo, è prodotto in grande abbondanza solo dalla fotosintesi. Ed essendo un elemento molto reattivo, se c'è, vuol dire che c'è una sorgente continua. Quindi per ora non abbiamo queste prove, però abbiamo alcuni indizi che secondo me sono promettenti, che fanno capire che la vita può esserci altrove. Ad esempio, gli amminoacidi. Li abbiamo trovati ovunque nell'universo, sulle meteoriti, sulle comete, nello spazio interstellare dove si formano le stelle, ci sono molecole organiche, non la vita, ma i mattoncini della vita. C'è l'etanolo, questa molecola che noi siamo abituati a goderne nei fine settimana, no? C'è nello spazio interstellare in piccole quantità. Quindi già la natura, in contesti non adatti alla vita, crea queste molecole che poi, combinandosi insieme, creano molecole, macromolecole che si autoreplicano sulla Terra, hanno così creato sulla Terra. E questo sembra spiegare il mistero del perché la vita sulla Terra è nata subito. Cioè appena la Terra si è raffreddata, appena è stata coperta dagli oceani, quindi più di 4 miliardi di anni fa, la vita è apparsa subito. La vita nella sua forma più elementare possibile, quindi unicellulare, ma è apparsa subito. Quindi questo sembra indicare se il caso terrestre è tipico o la Terra è una grande vincita alla lotteria cosmica o è un caso tipico. Io sono più propenso per il secondo, ma non ho le prove. Allora vuol dire che la nascita della vita è comune, è frequente. Se appena hai un pianeta non troppo caldo, non troppo freddo. Però dopo, per passare da quelle forme primitive unicellulari a qualcosa di interessante, quindi che ne so, a essere pluricellulari, ai primi pesci negli oceani, sono passati quasi 3 miliardi di anni di noia sulla Terra, nei quali però tu stavi intorno ad una stella stabile, longeva, tranquilla, il Sole. E non tutte le stelle sono come il Sole. Il Sole, noi sbagliamo a volte a insegnare ai nostri ragazzi dicendo il Sole è una stella mediocre. No, non è tanto mediocre, è una stella rara, perché è stabile, longeva e stabile. E questo ha dato tempo all'evoluzione di fare il suo lavoro. Poi magari altri pianeti l'evoluzione è più rapida, non lo so. Quindi io direi di sì, io sono... questa presenza del materiale organico nello spazio profondo è secondo me una prova non diretta della possibilità diffusa della vita. No, grazie, grazie, sono contento se riusciamo a comunicare, però se ci sono domande, come ha fatto la vostra professoressa, assolutamente. Oh. Qui c'è il microfono. Poi. Sì, non vi spaventate, assolutamente. Anche riguardo il libro, se volete. D'altra parte, io nel libro racconto di quando io incominciavo da studente, che ero poco più grande di voi, quindi... Vai. Allora, prima è partito il toto sondaggio. Chi è che è appassionato di fantascienza, quindi segue i film di fantascienza? Solo io, no? Allora, oh, qualche manina timida laggiù, qui alla mia destra? Ah, ok. Vabbè, adesso, una decina di anni fa è uscito Interstellar, penso, no? Tutti ci siamo innamorati di appassionato al genere, diciamo. Un po' critico. Ah, infatti volevo parlare di questo. Poi recentemente è uscita la saga di Dune, anche lì, imperi interstellari. Allora, in questi film cosa c'è, diciamo, che attiene, per esempio, in Interstellar alla scienza, ciò che è noto? Per esempio, io penso a questo wormhole attraverso cui il protagonista fa il viaggio per arrivare a questa galassia lontanissima dove ci sono possibilità di terra. Oppure penso alla rapidità in cui vengono fatti questi viaggi interstellari, quante sono le distanze che ci sono fra questi pianeti? E ultima osservazione, domande ti faccio. La fantasia degli scrittori della fantascienza ha dato degli stimoli alla ricerca scientifica e a volte, ne so, dei suggerimenti, e poi si sono visti delle dimostrazioni, un'intuizione all'Epicuro? Ah, sì. Ah, questa è interessante, questa domanda. Secondo me... Asimov, ma più che nel campo della robotica, devo dire. Cioè Asimov, quando scrive tutta la saga dei suoi racconti sui robot, ha queste idee geniali, ad esempio, delle tre leggi della robotica. Devi costruire robot che rispettino l'essere umano, se stessi, non ricordo l'enunciato preciso, ma secondo me lì è lungimirante, perché stiamo arrivando a un momento in cui avremo dei robot che si comporteranno come facsimili di esseri umani, e devono essere regolati da leggi che siano tecnologiche, morali, tra virgolette, anch'esse. Quindi lì mi ha molto impressionato molto Asimov. Nella parte spaziale credo che imperi galattici alla Star Wars, Star Trek o Asimov siano pressoché irrealizzabili. Non perché non esistano altri là fuori, ma perché siamo tutti molto lontani tra di loro, tra di noi. Le distanze fra le stelle sono veramente enormi. E io non ho idea di come si possono colmare. Quindi se dovessi dire quello che penso, direi non viaggeremo mai fra le stelle, come individui. Però ecco, non credete mai ad uno scienziato che dice mai, perché la storia della scienza è piena di scienziati che si sono sbagliati, e figuratevi se Covone la ingarra, assolutamente no. Però ecco, è un mistero come si potrebbe viaggiare. Forse comunicare sì, ma viaggiare è diverso. A meno che effettivamente i wormhole sarebbero i buchi del verme, letteralmente, una mela, il vermetto fa un buco e ti passa da una parte all'altra della mela accorciando la strada, la mela, la superficie della mela è il nostro spazio-tempo, e potrebbero esserci dei tunnel spazio-temporali che collegano due punti lontani con una scorciatoia. Ecco, ci sono colleghi fisici teorici che ragionano su queste ipotesi, scrivono articoli, fanno carriere su questo, ma rimangono al momento speculazioni matematiche. Non tutta la nostra matematica ha una corrispondenza nella realtà, anche se bellissima a volte. Quindi per ora non abbiamo nessuna prova che i wormhole di Interstellar, di 2001 nello spazio, esistano. Se poi volete saperne di più cosa ne penso, c'è questo volume della Mondadori, satiro scientifico, Barba Scura forse lo conoscete. Ecco, l'ultimo volume mi ha chiesto di pubblicare un capitolo, e lui, sapete come fa divulgazione, quindi il volume si chiama Seghe mentali cosmiche. E io ho risposto a tono, perché se la sfida a quel livello io mi apparo, come si dice, mi adeguo, e quindi il mio capitolo era viaggi spaziali, viaggi interstellari, fisica di domani o seghe mentali. E lì argomento che secondo me sono più del secondo tipo che del primo. Quindi iperspazio, viaggi nello spazio-tempo, motori, il Millennium Falcon che accelera 3 volte o 30 volte la velocità della luce, ecco, secondo me sono impossibilità. Non sono possibili, però ne possiamo discutere, se volete. Il che non vuol dire che non esistano altre civiltà o che non le possiamo cercare, che abbiamo la possibilità tecnologica di cercarle e di individuarle. Perché se sono come noi, desiderose di comunicare, stanno lanciando sonde nello spazio, stanno lanciando messaggi radio, messaggi laser, magari non sappiamo su quale frequenza sintonizzarci, ma io sono convinto che ci sia qualcuno a pochi anni di luce di distanza che guarda il cielo così come lo guardate voi, come lo guardiamo noi. La bellezza del campo di ricerca di cui stiamo parlando è che si parte da una domanda fondamentale che abbiamo tutti. Cioè, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha guardato le stelle domandandosi se l'intorno non ci siano pianeti intorno a quelle stelle dove c'è qualcuno che osserva noi come osserviamo loro. Sì, là fuori c'è sicuramente qualcuno che alza lo sguardo e vede una stella che per noi è Sole. Il Sole è una piccola stellina nel cielo di qualcun altro. Questa stella che è la Terra, diceva Giordano Bruno, con molto amore e orgoglio per questa sede, nonostante fosse stata messa in periferia da Copernico. Quel po' di luce. Ah, questo ad esempio, no? Diciamo, noi per questa immagine... Potete abbassare un attimo le luci dietro di noi, perché questa merita un pochettino. Questa è una piccola regione di cielo, che già vi dà l'idea dell'infinito, perché qualunque puntino luminoso voi stiate guardando lì sopra, non è una stella, ma è una galassia, grande quanto la nostra, forse anche di più. Sì, quell'oggetto in alto lì, rossiccio, con la raggiera, quella è una stella, ma tutte le altre sono galassie, alcune lontanissime, miliardi di anni luce, qualcuna un po' più vicina, e ognuna di loro contiene i suoi 100 miliardi di stelle, quindi con le sue 100 miliardi di possibilità di pianeti come la Terra. La maggior parte delle stelle non ha pianeti come la Terra, ma potrebbe averne. Perché no, Epicuro? Ecco, questa è la dimostrazione che Epicuro vedeva nel giusto. E questa è una piccola parte dell'infinito possibile, perché quanto è piccola? Se voi stendete il vostro braccio, il mignolo, dietro l'unghia del mignolo, questa è la regione di cielo dietro l'unghia del mignolo, amplificata, zoomata, ingrandita dal telescopio spaziale. Ecco, 100.000 galassie circa lì dietro questo vostro mignoletto. Immaginate tutto il resto. E io quando la guardo immagini come queste sono sempre meravigliato della profonda intuizione di pensatori come Bruno, per esempio. Non sta dicendo Bruno che lì ci sono mondi migliori, no, non sogna. Potrebbero essere migliori e peggiori, ma basati sulle stesse leggi fisiche nostre, che magari lui non conosceva, ma sapeva che dovevano essere le stesse leggi. E ovviamente se le zoomiamo, questi poi sono i miei disegni nel libro. Il libro non so se è scritto bene, ma ci sono anche i miei disegni. Io li facevo, sono disegni del tipo di quelli che faccio alla lavagna a lezione, non uso il PowerPoint, faccio, secondo me, didatticamente più utile, si comunica meglio se io sviluppo un pensiero e lo disegno, lo scrivo, faccio i calcoli. E quindi anche nel libro ci sono dei disegni che sono utili a far capire il ragionamento che si segue. E perché ne sono anche contento? Perché, specialmente quando comunico con voi, perché se vi dicessi potete diventare scienziati, ricercatori, grandi matematici, grandi fisici, biologi. Il problema è che voi non mi credereste tanto, perché voi siete nella fase in cui, della vita in cui ognuno di noi era estremamente scettico sulle proprie possibilità. E non credereste a nessuna persona qui sopra che vi dice potete farlo anche voi, perché siamo lontani come generazione, esperienze. Però se vi dicessi questi disegni, se li facessi vedere alla mia prof del liceo, la carissima prof Abate, che era l'unica che mi voleva rimandare, perché Covone studia tutto tranne che fa i miei disegni. E adesso lei, se lei sapesse che c'è un libro in vendita con i miei disegni dentro, dice Covone è quello che volevo bocciare, ecco, allora quella è la dimostrazione che tutti davvero possiamo fare tutto. Se io ho fatto questo, tutti possiamo realizzare qualcosa. Basta un po' di ostinazione, non è necessaria la genialità, ben venga se c'è, ma l'ostinazione è quella che ti fa rimanere per qualche fine settimana, non tutti, col culetto sulla sedia a insistere. Volevo dire, lei non demolisca mai più il Millennium Falcon e la sua, no, perché io sono cresciuta con Star Wars, mi sono formata con Star Wars, per cui lei non lo faccia mai più, ok. Io sogno di avere un compagno come Chewbacca. Ecco, appunto. Le volevo chiedere, viste queste distanze che ci ha fatto apprezzare, con le nostre tecnologie, noi fino a quale distanza riusciamo ad analizzare l'atmosfera di un pianeta oppure avere informazioni un pochino più dettagliate? Solo vicino casa, diciamo, in questo disegno c'è la posizione, uno schema della nostra galassia, che è una galassia spirale, e noi viviamo intorno ad una stella in periferia, per fortuna, perché il centro è troppo affollato, turbolento. E quella zona, quel cono di luce, quel cono tratteggiato, è la regione dove abbiamo scoperto la maggior parte dei pianeti, perché c'è un telescopio che ha puntato sempre nella stessa direzione a esplorare, scandagliare per bene un pezzo di Via Lattea. E quindi la maggior parte dei pianeti che abbiamo scoperto sono tutti vicino a casa, quindi diciamo entro 100-1000 anni luce, che sembra molto, ma in realtà la galassia ha un diametro di circa 50.000 anni luce. La galassia sono 100 miliardi di stelle e noi abbiamo trovato meno di 6.000 pianeti, quindi è tutti vicino, perché la nostra tecnologia è in fondo ancora primitiva in questa direzione, stiamo ancora muovendo i primi passi. Quindi quando cerchiamo poi tu, una volta che hai scoperto il pianeta, vuoi anche capire se è vivo, o potenzialmente vivo, e quindi vuoi capire se ha atmosfera. Quindi ti servono osservazioni successive per capire questo. Ora, l'atmosfera è la prima cosa che mi meraviglia della Terra quando la vedete dallo spazio. È una sottile pellicola che se no si vede di 10-100 km di altezza a seconda della definizione di confine dell'atmosfera che volete usare, su una Terra che è un pianeta che ha un raggio di 6.000 km, quindi davvero una buccia su una mela, letteralmente. Immaginate di cercare questa buccia, questa pellicola sottile a miliardi di chilometri di distanza. Ci stiamo riuscendo, ma solo per i pianeti più grandi, la taglia di Giove, con atmosfere grandi. Ma è questione solo di tempo. Gli ingegneri, gli ottici, nei prossimi 10-20 anni costruiranno telescopi migliori, in modo che gli astronomi dei prossimi decenni analizzeranno la composizione chimica delle atmosfere terrestri. Quindi, davvero, diciamo, forse qui avevo messo un'immagine più di una galassia simile alla nostra, se uno di quei puntini rappresenta il Sole, proprio intorno ad una piccolissima regione intorno ad esso possiamo ancora soltanto studiare i pianeti abitabili, non ovunque nella galassia, almeno per ora. Poi oggi noi studiamo una materia che si chiama astrobiologia nelle università, ci sono curriculum universitari, esami di laurea, esami universitari dedicati alla ricerca della vita nello spazio. Se un professore universitario negli anni 90, in cui eravamo noi studenti, avesse detto io studio astrobiologia, avrebbero chiamato il 118 con la camicia di forza, letteralmente gli avrebbero detto tu guardi troppo Star Wars, letteralmente. Adesso no, invece si insegna. Io non vedo l'ora di vedere le meraviglie di domani, le cose che sembrano impossibili oggi. Noi è quasi un'ora che siamo qua. Già. Ok. E poi non si è sciolto nessuno. Sì, infatti. Ci abbiamo anche un microfono qui. Se volete passiamo, perché c'è da fare delle domande, dai. Tu che sei alto, vieni. Qua. Ah, ce l'hai in sala? Fallo girare per piacere. Non è obbligatorio, ma se volete, ragazzi. Basta rompere il ghiaccio. Anzi, vi faccio vedere un'altra immagine che secondo me è molto bella. Ci sei? No, vabbè, lo voglio. Allora, questi sono gli astronomi che cercavano pianeti all'inizio, negli anni 90, quando io ero studente, dei colleghi. Adesso sono quasi in pensione, ma questi sono quelli che li cercano oggi. E dalla mia destra Stefano, Christian, che hanno fatto... Stefano all'inizio di dottorato, Christian difenderà la sua tesi di dottorato tra pochi mesi, ad aprile, e poi un collega dell'osservatorio di Asiago, vicino Padova. Quindi questi sono i ragazzi poco più grandi di voi che cercano pianeti. Questa è la sala di controllo di un telescopio. Tu non vai a telescopio con l'occhio sull'oculare. Si riprendono dati, immagini o spettri al computer, li analizzi magari anche il giorno dopo. Questa è però una foto presa di notte. E poi, io sono fortunato che insegno in 3 dipartimenti differenti, perché ho il mio corso di astrofisica nel... qui è ancora Cristian, non si riconosce con la mascherina che sta... non per il Covid con la mascherina, ma perché sono alla Leonardo, qui vicino, perché la Leonardo fa tante cose che sono abominevoli alla Leonardo, voglio dire, oggettivamente. Ma è la contraddizione di questa società. La fabbrica che costruisce armi, costruisce anche telescopi spaziali, nella stessa fabbrica. E qui stanno costruendo le ottiche di un telescopio spaziale, Plato, come Platone, che partirà nel 2026, un telescopio europeo alla ricerca di altri mondi. Un telescopio migliore di quelli attualmente in uso. E Christian, lì, durante il suo dottorato, ha partecipato ai test delle ottiche qua vicino. Ecco, proprio parlando di contraddizioni, nello stesso stabilimento si fanno cose così differenti. D'altra parte, è uno degli aspetti che vorremmo modificare della nostra società. E qui ci sono gli altri ragazzi che lavorano con me o hanno lavorato con me. Sono poco più grandi di voi. Quindi alcuni si sono laureati in fisica, stanno facendo il dottorato in fisica. Poi ho un corso di astrofisica per i biologi. Cioè, se tu sei biologo e vuoi cercare la vita nello spazio, aiutare gli altri a cercare la vita nello spazio, devi sapere un po' di astrofisica. E allora ti serve Covona che viene là e ti fa lezione. E poi un altro corso di cui sono molto orgoglioso è un corso, si chiama Fondamenti di Fisica e Cosmologia, alla laurea in filosofia, magistrale in filosofia. Perché molti di voi saranno filosofi, sono appassionati di filosofia e vorranno fare filosofia della scienza. Però se vuoi fare filosofia della scienza devi avere le basi della scienza di cui vuoi fare filosofia, se no fai parole vuote. E io insegno in quella università, in quel dipartimento, e c'è Maria Antonia, che ha fatto l'esempio, l'ultima delle ragazze che si è laureata con me in quel dipartimento, con cui abbiamo studiato il problema del pluralismo, il dibattito fra pluralismo e monismo. Cioè, esistono molte istanze della vita nel cosmo o una sola? Non tutti gli scienziati sono ottimisti come me. Molti, Jacques Monod, per esempio, il grande biochimico francese, scrisse questo libro, Caso necessità. Per lui noi siamo un'istanza unica nell'universo, frutto sia delle leggi della fisica, ma anche del caso. Un caso irripetibile. Io non so, è difficile dire chi abbia ragione. Perché anche se la vita è frequente nell'universo, l'evoluzione può avere tante altre strade. Infatti ti volevo fare una domanda. Quando noi parliamo di altre terre, quindi di altri pianeti, andiamo a caccia poi della vita. Sì, caccia nel senso buono. Caccia nel senso buono, certo. Però che cos'è la vita? È una domanda che magari da un punto di vista istintivo... C'è qualche biologo, docente di biologia in sala? Secondo me io non la so e credo nessun biologo può dare una definizione universale, sicura, certa al giorno d'oggi di vita. Ne possiamo parlare di quale. Anzi, il fatto sembra contraddittorio. Noi cerchiamo la vita, ma cerchiamo anche l'intelligenza altrove, nello spazio. Cerchiamo segnali intelligenti. Ma se dobbiamo definire la vita o l'intelligenza, non le possiamo definire ancora. Non sappiamo in realtà, se voi paradossalmente non sai cosa stai cercando, o almeno non lo sai bene. Ma è proprio questa ricerca che ti aiuterà a capire e a definire la vita. Trovando altri esempi di vita, capirai cosa c'è di comune, capirai cosa la definisce, se vuoi. È proprio la ricerca stessa che ti farà capire meglio il fenomeno. Quindi potremmo dare tante caratteristiche che notiamo sulla Terra del fenomeno vita, e ovviamente è importante tenere presente che noi cerchiamo per ora la vita come la conosciamo. Abbiamo oggettivamente un preconcetto. Non potrebbe essere altrimenti. La mia fantasia è certamente più limitata della fantasia creativa della natura. E quindi mi aspetto molte sorprese. Ogni volta che abbiamo scoperto nuovi pianeti, li abbiamo trovati diversissimi da quelli che esistono, da quelli che avevamo immaginato. Anzi, alcuni pianeti di Star Wars. Avete visto la prima puntata, il primo Star Wars, quello degli anni 70, il primo episodio. Luke Skywalker, quando deve decidere di abbandonare il suo pianeta natale, e sul tramonto guarda il tramonto del suo pianeta desertico, e cosa vede al tramonto? Ci sono due stelle. Il suo pianeta, Tatooine, era un pianeta intorno ad una stella binaria. Negli anni 70 ogni astronomo in sala si metteva a ridere. Ah, guarda questo qua, si è inventato i pianeti intorno alle stelle doppie. Impossibili. Oh, li abbiamo trovati. Aveva ragione Lucas. Abbiamo trovato i pianeti intorno alle stelle doppie. Abbiamo trovato i pianeti con gli oceani di magma, pure quelli ritornano nelle saghe di Star Wars. Quindi, questo per dirvi che abbiamo scoperto, cercando pianeti, tante sorprese impreviste. Figuratevi quante ne troveremo cercando la vita. Sì, scusa, non sono uno studente, ma ti volevo fare una domanda. Io ho letto il tuo libro e l'ho apprezzato tantissimo per la passione in cui proprio trasudano le pagine della tua passione per il tuo mestiere, la tua professione. E ci sono due cose che ti volevo chiedere. La prima è il fatto che parli molto degli scienziati che in qualche modo dall'istituzione, dalla società precostituita sono stati osteggiati, a partire da Giordano Bruno, ma anche più recentemente da scienziati che sono stati osteggiati dalle varie istituzioni e non sono stati finanziati nelle loro intuizioni. E dall'altro, e alla fine il libro mi ha lasciato sgomento. Perché? Mi ha lasciato sgomento perché mi ha fatto riflettere sulla lotteria che noi abbiamo vinto. Cioè, una lotteria incredibile, quindi una stella particolare, una distanza dalla stella particolare, una rotazione particolare, il fatto di avere un satellite che dà stabilità. Cioè, è incredibile come poi la specie umana nella sua poi struttura sociale attuale distrugga tutta questa fortuna che noi abbiamo. Sì, quindi grazie. Scusami, tuo nome? Giampaolo. Giampaolo, grazie, grazie. Nel libro ci sono storie di molti scienziati osteggiati, Bruno, ma osteggiati a volte perché non riuscivano a convincere chi aveva i cordoni della borsa della spesa in mano per finanziarli, per esempio. Quella è una grande difficoltà. E idee speculative, come quella della ricerca dei pianeti, non spesso venivano accolte bene. Ma soprattutto una cosa che mi è piaciuta raccontare nel libro, che ho deciso mano a mano scrivendo, perché il libro avevo in testa il titolo, Altre Terre, volevo raccontare l'avventura che porta a cercare le altre terre. E io ho iniziato dall'ultimo capitolo, se lo leggerete, avevo quella meta. L'ultimo capitolo è la prima cosa che avevo scritto, in modo molto informe, come bozza, e che ha convinto l'editore poi a scommetterci. E ho raccontato, siccome volevo trasmettere, come vi ho detto, una passione che è profondamente umana, volevo farvi capire che nella scienza sono molte comuni cose che sono comuni a tutte le altre professioni. Gli errori, i fraintendimenti, i pregiudizi, gli innamoramenti sbagliati. Quanti scienziati si innamorano di un'idea che poi si rivela sbagliata ed è difficile abbandonarla? E c'è chi riesce a farlo, che ha abbastanza freddezza, lucidità da cambiare idea, cambiare ipotesi, e altri no. Altri muoiono convinti dei propri errori. Ecco, se dobbiamo dire una cosa profondamente umana e comune, è quella di cambiare l'oggetto della propria passione a un certo punto quando ti accorgi che è una strada non promettente. in qualunque campo della vita, e nella scienza c'è. Ci sono gli errori, i pregiudizi, oppure a volte non ti sei innamorato abbastanza, c'è anche questo, e vai a capire se non ti stai innamorando abbastanza o ti sei innamorato troppo, non sei convinto abbastanza. Ecco, quindi ho parlato molto degli errori nella mia ricerca scientifica. Einstein è citato 2 volte, e Dio mi perdoni, tutte e 2 volte per i suoi errori, non per le sue genialità, ma è stato un caso. È un libro ottimista sugli errori, perché alla fine il processo è positivo, è in crescita, conosciamo sempre un pochino di più, non veloce come desideriamo, ma stiamo capendo qualcosa di più di quello che c'è intorno a noi. Quindi sono contento se ha trasmesso questo senso di passione, anche parlando paradossalmente di imprevisti, di passioni, o di scoperte fatte per caso, tra virgolette, perché non è mai solo caso. E poi niente, hai accennato alla vincita della lotteria, sì, perché la mia ipotesi, idea molto personale, è che i pianeti come la Terra esistano, ma siano rari. Cioè, quando dico come la Terra, intendo con la loro bella biosfera che esista da miliardi di anni, esiste da miliardi di anni. Perché ci sono molti parametri, molte richieste da soddisfare. Una stella longeva, non irrequieta, la giusta distanza, il campo magnetico. Ad esempio, se vi faccio vedere questo pianeta. Ah, questi sono altri ragazzi, questi sono i ragazzi che studiano biologia. Sono poco più grandi di voi, sono tra l'inizio della magistrale, quindi avranno tra i 22, 21 e 23 anni. Alcuni di questi si sono laureati con me. Ad esempio Satesh, il ragazzo in fondo a sinistra, quello che fa Fonzi, viene dalla Malesia, si sta laureando con me, con una tesi sulla ricerca del fosforo nello spazio. Ad esempio, vediamo un po', se trovo questa immagine. Eccolo qua, sto pianeta. Con l'acqua. Chi è? Lo conoscete questo pianeta? Oggi non è così. Esatto, bravo. Oggi è così, è Marte. Quello era Marte qualche miliardo di anni fa. Aveva l'acqua sulla superficie, lo sappiamo, perché c'è ancora acqua ghiacciata ai poli. Ci sono, se zoomate queste immagini vedete le tracce dei fiumi, dei delta dei fiumi. Per poche centinaia di milioni di anni, o forse ancora meno, ha avuto acqua liquida sulla superficie. E se la vita è universale, se la vita nasce davvero subito, appena hai acqua liquida sulla superficie, un po' di elementi, anche lì deve essere nata la vita. Ma oggi è così. Cosa ha avuto di diverso? Marte è un po' troppo piccolo, quindi il suo nucleo si è raffreddato subito. E come lei insegna al liceo, senza un nucleo di ferro fuso caldo, dinamico, non puoi creare un campo magnetico. Quindi Marte ha un campo magnetico molto piccolo. Senza campo magnetico i raggi cosmici vengono, colpiscono le molecole di H2O, le scindono e l'idrogeno leggero, che poi pianeta è anche piccolo in massa, se ne va. E un po' alla volta perdi l'acqua, perdi l'atmosfera, si desertifica. E quindi Marte era così, la vita può anche essere nata, ma spesso la natura è matrigna, non madre. Non accudisce le sue speranze di vita. E già, ecco, già se guardi vicino casa, Marte o Venere, forse anche Venere aveva un oceano, e poi un incidente cosmico, forse un crash con un planetoide ha fatto nascere fenomeni vulcanici che hanno reso un effetto, hanno arricchito di CO2 l'atmosfera troppo, è diventato un inferno quello che è oggi. Quindi servono molte condizioni rare, ma non impossibili. Quindi a mio avviso sì, abbiamo vinto, non siamo gli unici, ma abbiamo vinto un bel biglietto della lotteria. Sì. Quindi. Prego, grazie. Infatti ecco qua i deserti di Marte. Oggi. Gli oceani del sistema solare, quello è il bonus di dopo. Ho 2 bonus. Uno è il progetto di ricerca e poi un mio dialogo che ho fatto con... A me mi piace un sacco di chiacchierare. Ma sapete perché? Perché ascoltare, specialmente con un ufologo, un ufologo dopo una chat, perché è bello indagare le stelle, ma è ancora più bello studiare la testa che indaga le stelle, come pensa, come arriva alle cose, e soprattutto come a volte sbaglia strada. Quello a me affascina molto, da non psicologo, da scienziato, e quindi anche la storia, perciò la mia passione per Epicuro, eccetera. Allora, gli oceani nel sistema solare. Ecco perché prima vi dicevo che secondo me c'è possibilità di vita nel sistema solare, non su Marte. Su Marte c'è lavoro per i paleontologi, forse. Perché se c'è stata vita nel passato, potrebbero esserci fossili. Quindi chi si interessa di fossili, così come i geologi di 30 anni fa non immaginavano di fare geologia della Luna, di Marte, oggi si fa, vai là, prendi i robot, prendono dei pezzi di pianeta e te li portano a casa. Un giorno cercheremo i fossili su Marte. Però ci sono luoghi nel sistema solare, intorno a Giove, ma non solo intorno a Giove. Ecco, guardate questo pianetino, un satellite di Giove, uno di quelli lì scoperti da Galileo. Europa, forse qualcuno di voi lo conosce. Sembra una palla di biliardo. Di cosa è fatta la sua superficie? Non ha atmosfera perché è troppo piccolo. Secondo voi, date quelle crepe, cosa sono? Di acqua. Quelle crepe sembrano i crepacci di un ghiacciaio, come quelli che vedete nell'Artico dall'alto. È fatto di ghiaccio d'acqua. Le analisi chimiche a distanza l'hanno dimostrato. E sotto sappiamo, questa è una rappresentazione modello, che c'è acqua liquida, perché ha un nucleo caldo, uno strato molto di un centinaio di chilometri, forse anche di più, di acqua liquida, e poi una copertura di ghiaccio. Quindi c'è un oceano di acqua liquida, non superficiale come sulla Terra, ma nascosto, buio, senza luce. Potrebbe essere così, quindi, il modello, perché questi abbiamo visto i geyser sulla superficie, da lontano, i geyser di acqua che rompono il ghiaccio. Quindi deve essere fatto così. E la vita sulla Terra non è nata in superficie. La vita sulla Terra quasi sicuramente è nata nei fondali bui degli oceani, vicino alle fumarole. Lì la vita si nutriva di energia chimica e termica. Ed è iniziata lì. E lì c'è tutto. Quindi se è successo sulla Terra, perché non lì? Forse, quindi, vicino casa, in questo oceano che ha 4 miliardi di anni pure lui, come la Terra, ha avuto chance la vita. E quindi andiamo a cercare la vita lì. Questi sono i geyser, già immagine artistica, ma qui col telescopio spaziale hanno visto dei getti da lontano, confermando dall'analisi chimica che è acqua sotto. E se calcolate con un piccolo esercizio di geometria il volume degli oceani di Europa, cercate su Wikipedia le dimensioni di Europa, calcolate il volume di un guscio sferico, e vedrete che ha più acqua liquida Europa che la Terra. La Terra ha pochissima acqua. Lo strato degli oceani sono 5 km di profondità in media. Una pellicola sottilissima, 5 km su un raggio di 6.000. Poco. Il volume in litri di acqua è più grande su Europa. Ecco, tra un po' di anni sapremo, forse, se c'è vita su Europa. Lo stesso giorno in cui fu pubblicato il mio libro, il 13 aprile 2013, non eravamo d'accordo però, a volte funzionano anche le associazioni. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha inviato questa sonda in diretta intorno a Giove, con l'obiettivo, tra l'altro, di sorvolare i geyser di Europa, prelevare campioni e analizzarli in loco. E perché la cosa vi riguarda? Perché questa è partita nel 2023, quindi il lancio, che era rischioso, è andato bene. A ottobre scorso è tornata intorno alla Terra per fare un flyby con la Terra ed essere lanciata nello spazio, come quando voi state in bicicletta e il vostro amico con motorino vi strascina, vi lancia più veloce. Uguale, grazie alle leggi di Newton. Quindi qui non c'è il video. Ecco, quindi quella è partita. Estate 2025. Molti di voi faranno quest'estate l'esame di maturità, forse. Ok? E quindi l'anno prossimo, il prossimo autunno, dovete scegliere cosa fare da grandi. Intanto quella è partita. Nei 3 anni della vostra triennale, che può essere scientifica, filosofica, in chimica, in fisica, in matematica, lei fa questo viaggio noioso nello spazio interplanetario, voi avete un viaggio meno noioso sulla Terra, più difficile forse il vostro, perché lei ormai è lanciata. Quindi arriviamo al 2028-2030. Voi dovete fare la magistrale. Magari venite a fare biology of extreme environments con me a Napoli, o fare filosofia, fisica da qualche altra parte. Sono tutte discipline utili nella ricerca della vita. Nel luglio del 2031, quando voi forse state incominciando a lavorare al vostro primo anno di dottorato, quella sonda intercetterà i geyser di Europa e manderà i dati sulla Terra. Ecco, magari c'è da qualche parte, ci saranno sicuramente dei giovani dottorandi in Europa che spenderanno il loro sabato sera incollati davanti a un computer aspettando i dati che arrivano d'Europa, sicuramente ci saranno. Magari qualcuno di loro sta già in questa sala, però. Chi lo sa? È un progetto possibile. Basta un po' di ostinazione e i tempi sono sincronizzati. Letteralmente. Qualcuno lo farà, e in quei gruppi di ricerca ci sono giovani, ci saranno giovani, come ci sono adesso giovani al CERN, alla NASA, al Gran Sasso, in tutte le discipline, in tutti i dipartimenti di scienza del mondo, ci sono ragazzi che aiutano, ragazzi e ragazze che aiutano i prof più vecchietti che da solo non ce la farebbero. E quindi potrebbe riguardare anche voi da vicino, letteralmente. Bonus. Facciamo uno solo, ma quello è per la risata finale. No, certo. L'ultimo bonus era l'ultimo certo. Bonus per la risata finale. A proposito di immaginazione scientifica, sì. Vuoi dirci qualcosa su Edgar Allan Poe, Eureka? Ah, che accennavi che era molto carino. Sì, sì. Nel libro parlo anche di poeti e filosofi, uno di quelli è Edgar Allan Poe, forse qualcuno di voi lo ama, lo conosce come grande scrittore di romanzi gialli, dell'horror e anche di fantascienza. Edgar Allan Poe, l'ultimo suo libro è poco noto anche agli amanti di Edgar Allan Poe, si chiama Eureka, è un libro di filosofia e cosmologia allo stesso tempo e poesia. Lui aveva una grande passione per l'astronomia, aveva anche un telescopio da ragazzo. Ma soprattutto Edgar Allan Poe è il primo a capire perché il cielo è buio di notte. Una risposta a un paradosso che aveva lasciato senza, diciamo, aveva lasciato nel buio letteralmente anche i fisici. Il cielo di notte è buio, ma se l'universo è infinito, si pensava nell'Ottocento sulla linea di Newton, se l'universo è infinito e ci sono stelle ovunque, allora dovrebbe essere coperto in modo uniforme di stelle, perché è vero che le stelle lontane sono più deboli, con la luminosità che dipende da uno sulla distanza al quadrato, ma il loro numero è più grande e compensa la diminuzione di luminosità. Tante sorgenti deboli sono uguali a poche sorgenti luminose, matematicamente, è facile da dimostrare. E quindi perché il cielo di notte è buio? Edgar Allan Poe lo intuì. Ed è questo è meraviglioso. Lo intuì forse proprio perché non era un fisico iscritto all'Accademia del Tempo. Lui concepì tra i primi che l'universo non è eterno nel tempo, non è infinito nel tempo, ha avuto un'origine. E immaginò anche un modello molto simile a Big Bang, con tutte le sue contraddizioni, non era un matematico. Ma aveva visto bene, anche Einstein, anni dopo, riconosce la sua premonizione. E quindi se l'universo è finito nel tempo, se è nato poco tempo fa, poco tra virgolette, allora vuol dire che ci sono stelle così lontane la cui luce ancora non è fatto in tempo a raggiungerci. E questo spiega perché parti del cielo sono buie. Ci sono stelle in quella direzione, diceva Allan Poe, ma da quella direzione le stelle sono così lontane e quindi la loro luce non ci ha ancora raggiunto. E questo è molto bello perché appunto è un poeta che risolve il paradosso e sostanzialmente oggi gli diamo credito, ha intuito la soluzione giusta al motivo per cui il cielo è buio. E a volte le domande più banali sono anche quelle che nascondono più misteri. Perché il cielo è buio? E perché è azzurro di giorno? Eccetera. No, le domande che fanno i bambini sono le più tremende per i filosofi e per gli astronomi. Perché non c'è la pace sulla Terra? Giusto, quanti miei nipoti la fanno, per esempio? Sì, dimmi. Lì. Ma non ti sentono gli altri? Io sì, però è un peccato. Mi scusi, lei prima ha parlato di pianeti che vengono scoperti ogni giorno sempre più assurdi, con due soli, con mari sì. Di lava. Mi chiedevo, l'anno scorso è uscita una serie TV, Il problema dei tre corpi. Sì. In cui c'è questo pianeta che orbita alternandosi intorno a questi tre soli. Volevo sapere se un giorno si potrebbe trovare effettivamente questa condizione. Sì. O se... Sì, allora, sì. Lì è molto interessante perché nel problema dei tre corpi, poi anche i romanzi sono abbastanza, sono belli. Il primo non era, stilisticamente avevo dei dubbi, però sono belli, belle idee. Lui immagina un pianeta intorno a tre soli e quindi la sua orbita non è bella orbita quasi circolare come la Terra, ma orbita, ha un'orbita quasi caotica, per cui a volte addirittura collassa la società. Allora, secondo me è poco credibile quella soluzione, perché intorno a tre soli quel tipo di orbite che si immagina veramente diventa difficile che resistere per miliardi di anni su orbite compatibili con la vita. Però abbiamo trovato sistemi paradossalmente più complessi. C'è un sistema solare con sei soli, tre coppie di stelle, e lontanissimo, intorno ad una delle coppie c'è un pianeta. Quindi immaginate tre coppie come queste tre bottiglie, tutte e tre legate, ogni bottiglia rappresenta una coppia di stelle vicino, e qui intorno gira un pianeta. Quindi la soluzione di Star Wars è credibile perché hai due stelle vicine e il pianeta lontano. Se il pianeta fosse vicinissimo alle stelle, tra le stelle, l'orbita sarebbe caotica e prima o poi sarebbe addirittura cacciato via, spazzato via dal sistema. Ma se il pianeta è abbastanza lontano e vede le due stelle vicine, allora l'orbita è probabile che sia stabile. E in questo sistema di sei soli ci sono tre coppie e almeno una delle coppie ha delle stelle. Quindi nella soluzione del romanzo, un pianeta proprio vicinissimo ai tre soli, secondo me riceverebbe troppe perturbazioni per resistere miliardi di anni. Ma se fosse abbastanza lontano, le perturbazioni non dovrebbero essere così gravi. Le perturbazioni intendo le variazioni dell'orbita. Adesso non mi ricordo a memoria il nome di questo sistema con sei soli, ma se sei interessato a saperne un po' di più le cosa hanno scoperto, se mi scrivi per email o su qualche social ti posso dare il riferimento. Sì, il cielo è veramente... Sei soli è interessante perché c'è un romanzo di Asimov, tornando alla fantascienza, Notturno, forse si chiama. E lì immagina una cosa simile al problema dei tre corpi. Lui immagina che c'è un pianeta intorno a 5 o 6 stelle, quindi non è mai notte lì, praticamente. Cioè, se c'è sempre qualcosa sopra l'orizzonte, un sole. Però una volta ogni tot millenni, sono tutti e 6, o 5 o 6, non mi ricordo quanti sono, sotto, e diventa per la prima volta buio. E per la prima volta nell'arco della civiltà vedono il cielo buio, le stelle, ed escono tutti quanti pazzi, come si dice a Napoli, no? Come si dice qui? Uscire pazzi, si capisce? Cioè, collassa la società per questa follia del cielo notturno pieno di stelle. E si ricomincia da capo. Ogni tot millenni tutti i soli tramontano, appaiono le stelle e collassa la società. È un bellissimo racconto di Asimov, che credo che si chiami Notturno, che quindi ha molte delle radici dell'idea dei tre corpi, del problema dei tre corpi. Sì, laggiù due. Aspetta, vedi cos'altro? Questo dopo. Salve, volevo chiedere, a proposito della missione dell'ESA su Europa, avevo sentito che era stata scoperta una possibile forma di vita sulla luna di Saturno, Titano, ma mi chiedevo come fosse possibile, perché la luna di Saturno, Titano, ha solo fiumi di metano liquidi e non, almeno da quel che so io, non contiene acqua. Sì. Sì, allora, Titano è un satellite di Saturno che ha un'atmosfera, uno dei pochi satelliti, forse l'unico, ad avere un'atmosfera molto densa. E la temperatura è più bassa, quindi su Titano c'è il ciclo del metano, così come sulla Terra c'è il ciclo dell'acqua. Quindi ci sono oceani, laghi di metano liquido a bassissima temperatura, evapora, crea nuvole, condensa, piove metano. C'è il ciclo del... Ed è Titano è unico, in questo assomiglia alla Terra, che ha un liquido, oceani di liquidi in superficie, non di acqua. L'acqua c'è nel sottosuolo di Titano, però il metano non è alieno alla chimica organica. Il ruolo dell'acqua sulla Terra, uno dei ruoli biologici dell'acqua, è quello di funzionare come solvente per le reazioni biochimiche che... sono il meccanismo vitale, del meccanismo del motore della vita. Ipoteticamente uno potrebbe pensare che il metano abbia lo stesso ruolo al posto dell'acqua lì sopra. Quindi non è stata trovata vita, ma è uno dei target, degli obiettivi più interessanti per gli astrobiologi, e c'è una missione molto interessante della NASA che si chiama Dragon, forse, ancora non approvata, in fase di costruzione. L'idea è di mandare gli elicotteri, droni su Titano, che voleranno, perché c'è atmosfera, quindi possono volare. Quindi è estremamente promettente. Io non ce l'ho qua delle immagini, però all'inizio di questo secolo hanno mandato Cassini, la sonda che ha fatto l'immagine di Saturno che abbiamo visto, ha mandato un probe, una sonda, Huygens. Cassini è un grande astronomo italiano, Huygens è un grande astronomo olandese, entrambi hanno studiato Saturno. Questa sonda Huygens è precipitata in atmosfera di Titano, e vi invito a cercare sugli archivi della NASA, uno, il rumore del vento su Titano, registrato dalla sonda che precipitava, il rumore del vento di un mondo alieno, e fa venire i brividi pensare cos'è quel suono rotto da rumore elettrostatico degli strumenti. E quando è precipitata, prima di spegnersi, ha fatto in tempo a fare delle foto e ha fotografato intorno a sé dei ciottoli rotondi. Sono il tipo di ciottoli che tu vedi sui fiumi. È atterrato sul bagnasciuga di un fiume o di un lago, di metano. Potrebbe esserci la vita. Quella è estremamente interessante, roba veramente fica, proprio come si dice nei laboratori di biologia. Perché, cavolo, se c'è la vita lì, avrebbe molto in comune con la Terra, ma anche molto di diverso. Chimica organica, biochimica organica basata su metano, non è impossibile. C'è gente che ci lavora. Quindi quello è del vicino casa. Cioè, se smettessimo di pensare a terraformare Marte o di mettere 10.000 satelliti in orbita che ci chiuderanno il cielo letteralmente, o di costruire arsenali atomici sufficienti per distruggere non la Terra, ma tutti i pianeti che abbiamo scoperto. Forse siamo là, possiamo distruggere 6.000 pianeti con i nostri arsenali atomici. Arriveremo su Titano fra 2 anni. Il limite sarebbe solo la velocità, non le nostre capacità di ingegneri. Cavolo, togliete tutti gli ingegneri dalla Leonardo, nel ramo armi in produzione militare della Leonardo, metteteli a costruire un elicottero che vola sui cieli di Titano. Ci metterebbe 1 anno a risolvere il problema. 2 anni per viaggiare. C'era una domanda a fianco. Salve, buonasera. Allora, io avrei una domanda, non tanto sulla fisica, ma quanto sull'etica. Lei ora ha citato... Cosa? Sull'etica. L'etica, ok. Lei ora ha detto giustamente che se non ci fossero tutti questi grandi investimenti sulle armi, ma bensì venissero portati sullo studio dello spazio e tutto, potremmo procedere molto più velocemente. Però la mia domanda è, noi viviamo in un mondo che è tutt'altro fuorché perfetto, cioè ci sono guerre, sì, ci sono problemi di fame, ci sono inquinamento e tutto. Ecco, secondo lei è giusto proiettarsi così tanto verso un futuro che ha detto che comunque non è così tanto prossimo, piuttosto che pensare a risolvere quello che attualmente c'è sulla Terra? Sì, giusto e necessario sprecare i soldi nella ricerca scientifica. Ammettiamo che, e non è così, che la ricerca scientifica sia uno spreco dal punto di vista commerciale, utilitaristico, io lo riterrei comunque assolutamente importante. Dante ha sprecato il suo tempo scrivendo la Divina Commedia, Leonardo a disegnare la Gioconda, Beethoven a comporre musica, potevano fare un lavoro produttivo, letteralmente. Tutte le generazioni di artisti, poeti, letterati, ok? Noi abbiamo ricevuto delle pitture dei nostri antenati del Paleolitico che in quel momento, invece di difendere i propri simili dalle belve che comunque c'erano là fuori o di andare a cercare frutti, hanno perso ore e ore e ore a disegnare le loro grotte. Meno male l'hanno fatto. Avete visto il film L'attimo fuggente? C'era Robin Williams, uno dei suoi primi film. Lui è un insegnante di una scuola superiore, un college americano. E lui è un insegnante di poesia in un college di ragazzi che faranno commercialisti, avvocati. Quindi, che gli serve la poesia? E lui dice, la poesia ci serve perché siamo membri della specie umana. La poesia ci serve perché un giorno saremo cibo per vermi. E la poesia, in questo frattempo che ci separa tra il nulla di prima e quello di dopo, ci serve a capire un po' chi siamo. Lo stesso vale per la ricerca scientifica. Questa attività inutile che ti serve a capire un po' dell'ignoto intorno a te. Quindi io che faccio un'attività, se vuoi, più speculativa, di conoscenza di base, prima di parlare di ogni possibile applicazione economica, ci tengo a difenderla così. Poi sappiamo benissimo che ha tutte le ricadute di questo mondo, per fortuna, tecnologiche, anzi, la radice storica della scienza è in fondo la sua applicazione. Ok? Si è inventato il fuoco e il cannocchiale perché sono utili. E se voi, il problema non è tanto nella esistenza della scienza, il problema è che la scienza è figlia di un mondo contraddittorio. Noi siamo al punto in cui abbiamo costruito i più grandi microscopi, telescopi, navi spaziali e contemporaneamente costruiamo gli arsenali militari. Questa è la contraddizione, questo è un bivio in cui a un certo punto come collettività dobbiamo scegliere in che direzione andare, perché abbiamo grande potenza fra le mani, non è più una piccola potenza in cui le guerre mondiali, le guerre anche le più grandi erano comunque regionali, cioè la prossima guerra veramente sarebbe un dilemma. E io sono estremamente ottimista ovviamente, se no non scrivevo libri o ero qui a parlare con voi, però il bivio lo so, c'è di fronte a noi e non... Ed è chiaro che c'è una contraddizione anche nella carriera, nella vita di molti scienziati. Devi scegliere giorno per giorno se alcune applicazioni, se vuoi sviluppare strumenti tecnologici come l'intelligenza artificiale, sai che potrebbero essere usati per qualcosa. 5 febbraio sul sito della CNN leggevo che Google ha eliminato una piccola parte del suo decalogo di autoregolamentazione, in cui c'era scritto fino a quel momento non useremo mai le intelligenze artificiali per sviluppare armi. Ci si è accorti dal 5 febbraio che quel codicillo di autoregolamentazione è scomparso dal decalogo Google. Ok, segno dei tempi, cioè è molto redditizio fare quelle applicazioni. Quindi il problema è sempre l'applicazione sociale e il controllo politico del grande strumento che è tra le mani. La soluzione non è non finanziare la ricerca per fare altro. Anzi, se vai a vedere quanta ricerca scientifica viene fatta da militari o dalle compagnie mediche private che brevettano le medicine, non divulgandole, ad esempio nel caso del Covid, se vai a rileggere la storia del sviluppo delle medicinali, dei vaccini durante il Covid, c'era questo dilemma. Chi prima arriva guadagna di più e bisogna renderlo pubblico o no, gratis o no, per esempio. Spero di aver risposto alla tua domanda, anche se sono stato un po' polemico, ma a volte è necessario dirsele in modo chiaro. La scienza è necessaria in ogni caso, perché vogliamo capire un po' di più di quello che c'è intorno a noi e non vogliamo solo sopravvivere. Sì. Sì, approfitto il microfono. Certo, vai. Lei prima ha detto che l'universo ha una data di inizio ben precisa. Ma... Sì, precisa no, pensiamo che sia il modello che dice che ha avuto un'origine, per se ti devo dire giorno e ora, cioè, nessuno lo sa dire. No, chiaro, certo. Però non è infinito. Esatto, non è infinito nel tempo. Quindi nel momento in cui è nato l'universo, è iniziato dal niente? Cioè non c'era niente? Perché dal niente non nasce. Allora, niente. Il niente bisogna definirlo, il vuoto bisogna definirlo. Il vuoto ha un significato diverso per un filosofo, un poeta, un fisico. Innanzitutto, lo scorrere del tempo, se è vera la relatività generale, che vede anche un'unione dei due concetti, delle due entità fisiche, di spazio e tempo, lo spazio e il tempo sono nati con questo evento iniziale. Quindi prima non scorreva il tempo, sì, se posso dirlo in modo più poetico, così come prima non puoi dire un dove. Il vuoto, ecco, questo non lo so, poteva esserci presente una forma di energia con delle oscillazioni, chiamiamo un campo quantistico che fluttua, per esempio. Il fatto che ci manca una teoria che possa permetterci di indagare quei primissimi istanti. È una regione della natura, lontana nel tempo, che non siamo in grado di riprodurre nei nostri laboratori. La densità di energia, di materia che c'era in quell'istante, non la possiamo ricreare al momento nemmeno nei nostri acceleratori di particelle, dove pure raggiungiamo energie molto elevate quando si fanno scontrare i protoni fra di loro, a Ginevra, ad esempio. E poi dal punto di vista teorico, per indagare una regione dello spazio-tempo estremamente densa e compatta, ci serve una teoria della gravitazione che sia compatibile con la meccanica quantistica. Quantum gravity, teoria delle stringhe, sono dei tentativi teorici per capire, col nostro linguaggio matematico, quel tipo di fenomeni. queste teorie ancora non ce l'abbiamo. Queste teorie che ti ho detto, quantum gravity, teoria delle stringhe, sono dei tentativi che al momento non hanno ancora raggiunto l'obiettivo. E in fondo è anche l'idea di capire cosa c'è dentro un buco nero, ancora misterioso, anche dal punto di vista matematico per noi. Quindi lì veramente ci sono i leoni, come si descriveva sulle mappe medievali di una volta. Il che non vuol dire che non saranno irraggiungibili, però non credo che ci sia nessuno oggi in grado di dirti con certezza prima c'era un altro universo o che poi è morto e è rinato il nostro o no. C'è questo teorico inglese che è molto un fan dei sistemi ciclici, Penrose, Roger Penrose, anche grande divulgatore, grande scrittore, Roger Penrose, lui è il sostenitore di una teoria di universi ciclici. Da ogni Big Bang nasce un universo che poi avrà una fine e rinasceranno altri. Quindi in questo senso sarebbe infinito. Un ciclo infinito di universi. Sì. Ma lì, a volte in queste situazioni, così come nel dire quante civiltà aliene esistono nella galassia, le soluzioni che uno scienziato ti prospetta sono più un figlio della figlia della propria psicologia che della propria scienza. Perché ci scontriamo veramente con ambiti della speculazione dove la scienza ti dà per ora ancora un piccolo appoggio. Quindi sì, sarebbe quello di Merrose, sarebbe una serie infinita di universi, cicli infiniti di universi. Perché quello che può essere stimolante è cercare di comprendere se, perché dal niente se non nasce niente, no? Scientificamente è difficile. Allora, se il problema con niente non cos'è? Niente... Non è assenza di energia completa, assenza di materia, assenza di tempo e spazio. Ecco, quel niente va un attimo definito. Se noi estraessimo da tutta questa sala tutta l'aria, tutta la materia, ad esempio, comunque ci sono i campi elettromagnetici delle stelle lontane che hanno mandato le loro onde, ci attraversano. Togliamo anche le stelle lontane e scompaiono quei campi elettromagnetici. Ci sono campi di altri enti fisici magari ancora da scoprire, che permeano l'intero universo e potrebbero essere responsabili dell'energia che lo fa espandere, l'energia oscura, cui già il nome ti dice che non ne capiamo niente. Quindi il vuoto è veramente un'idea. Quando dici niente, ecco, vorrei definirlo bene, il niente, non è banale definirlo. Non è il vuoto di Aristotele, il niente dei fisici. E allora, se non c'è questo niente, quindi se c'è non qualcosa, c'è questo niente, quindi e c'è ti qualcosa... scontri anche col limite del tuo linguaggio, della tua logica. L'idea che tutti gli effetti abbiano una causa, in fondo è un'arte, secondo me, sotto certi aspetti, anche una costruzione della nostra logica. Certo. Questo, quindi ti scontri con i linguaggi anche della nostra pensione. Sono anche delle ragazze qua. Dopo ne parliamo di più, guarda, non è banale quello che dici. È difficile, da parte mia, poi risponderti in modo esauriente a questo. Sì. Ce ne sono diversi. Vai. Tanto io rimango anche dopo, ragazzi, sono in giro, non scappo. Sì, no, dimmi, come ti chiami? Martina. Matilde? Martina. Matti. No, mi stavo chiedendo se... Oddio. Se effettivamente riuscissimo a trovare una vita in un altro pianeta, come facciamo a sapere se le condizioni di questo pianeta sono adatte anche per il genere umano? Sì. Di tutti i pianeti che conosciamo, specialmente nel Sistema Solare, sappiamo bene che non sono adatti non solo al genere umano, ma a nessun organismo di tipo terrestre. Noi in realtà siamo molto schizzinosi come esigenze, no? Abbiamo bisogno di temperatura sopra i 0 gradi, sotto i 40 gradi, in modo continuo, eccetera. Però sulla Terra, ad esempio, possiamo studiare quello che si fa, ci sono i miei colleghi nel Dipartimento di Biologia a Napoli, studiano gli estremofili, cioè microorganismi che riescono a sopravvivere nei fondali oceanici, dove c'è altissima pressione e buio, nei laghi salati, nei ghiacciai del Polo Nord, nella solfatara, che è questo lago ribollente che c'è vicino Napoli, che adesso ogni tanto bolle di più col bradisismo. Ci sono delle alghe lì dentro, incredibile. Quindi studiare questi estremofili, questi organismi che sono adatti alle condizioni estreme per noi esseri umani, ti può dare un indizio per capire quali sono gli ambienti cosmici dove può esistere la vita, perché Marte, Venere, Europa sono certamente luoghi che definiresti estremi. Quindi nel Sistema Solare, anche su Titano, noi non potremo andare, saranno 140 sotto zero. Però qualcuno dei pianeti là fuori, ecco, se tu vedi tracce di acqua e tracce di ossigeno molecolare e ne misuri la temperatura, allora potresti incominciare a dire, ad esempio, questo è uno di quelli, questo è un disegno, questo è un pianeta che abbiamo scoperto anche noi, contribuito anche noi da Napoli quattro anni nel 2000. Noi in realtà vedemmo solo l'ombra di questo pianeta passare davanti alla sua stella e capimmo che non è troppo vicino, troppo lontano dalla sua stella. Il resto ce l'ha messo l'artista della NASA che ha disegnato quello che è possibile, ma non sicuro. Un oceano con le nuvole, eccetera. Ecco, questo per alcuni mesi abbiamo pensato, oh, questo forse a condizioni simili, adatte a noi, perché non è troppo freddo, non è troppo caldo, è grande come la Terra, più grande di Marte. Poi abbiamo capito che non ce l'ho qua il disegno, che la sua stella è irruenta, è violenta, ha grandi eruzioni solari che probabilmente hanno già strappato via la sua atmosfera. Quindi, e infatti il giornalista che dopo mi intervistò in quei tempi mi chiedeva, ma secondo te c'è la vita, eccetera? Io provai ad argomentare, sì, forse un giorno la troveremo qualcosa, forse ci sono batteri lì. Lui mi si è virgolettato, gli alieni esistono, moi. Non ho mai detto quello. Però se volete parliamo anche dell'Area 51 per dirvi se esistono là o là dentro. All'Area 51. Dopo ci divertiamo. Sì, sì. Tuo nome? Tommaso. Tommaso. Sì, io volevo fare una domanda visto che prima ha citato la terraformazione di Marte, no? Sì. E mi è parso anche di intuire un po' un tono critico, non so. Molto critico. Ecco, infatti. No, io mi trovo d'accordo, quindi sì, sì. Però volevo chiederle un po' un discorso, cosa sì, ne pensi. Sì, più argomentato, hai ragione. Sì, sì. Visto che allora, è di attualità. Io condivido quello che diceva anche Francesco prima. Cioè, se guardiamo estremamente lontano nel futuro, prima o poi dovremo pensare a viaggiare anche come specie. Ok, fuori da qui. Ma non è all'ordine del giorno di questa generazione, della prossima, delle prossime. Io sono estremamente convinto che non c'è un'opzione B, un pianeta B. Non c'è nel sistema solare, e possiamo dirlo perché dopo, ma nemmeno quelli che scopriamo là fuori lo sono, soprattutto perché sono molto lontani. Anche se Alfa Centauri, il sistema stellare più vicino, che è triplo tra l'altro, avesse un pianeta simile alla Terra, quattro anni luce, ci vogliono millenni per la nostra tecnologia per arrivarci, è un'altra cosa. Ok? Quindi noi investighiamo, cerchiamo pianeti simili alla Terra là fuori, là sopra, non perché vogliamo colonizzarli, ma perché vogliamo capire meglio il nostro. Questo è il senso scientifico. Vogliamo capire come sono nati i pianeti, come è nata la Terra, quanto è unica la Terra. Non è colonizzare. Però Marte là vicino, Marte ha stimolato sempre la fantasia. Quindi perché terraformare è un'impossibilità, secondo me, è impossibile ed è anche uno spreco di risorse adesso. È impossibile perché Marte, come dicevo, soprattutto è molto piccolo. Venere è più promettente, Venere è più simile alla Terra, lascia stare l'atmosfera, vicinanza al Sole. Marte è così piccolo per cui non può trattenere a lungo la sua atmosfera, anche se tu la riformi, per esempio. Non ha un campo magnetico, quindi ad esempio devi ricreare, non solo devi mettere ossigeno in atmosfera o alghe fotosintetiche, ma devi ricreare un campo magnetico che ti protegga da raggi cosmici. E però ho visto dei progetti, qualcuno ha detto faremo un bel grande anello conduttore all'equatore, e come sapete avete fatto elettromagnetismo, la legge di Biot-Savart per esempio, no? Se avete un filo percorso la corrente create un campo magnetico, è un bel filo di corrente all'equatore di Marte, esercizio di fisica per i ragazzi del quinto anno. Che intensità di corrente deve avere la corrente sull'equatore di Marte per creare lo stesso campo magnetico che abbiamo sulla Terra? In un quarto d'ora di conti lo fate? Mi fate sapere, io non l'ho fatto ancora il conto, per esempio. Quanti ampere ci vogliono? E quindi che spessore, che materiale ci vuole per sostenere quella corrente? Per esempio. E poi è un pianeta che non è geologicamente attivo. E ne discutevamo prima, il fatto che la geologia sia attiva sulla Terra e ci siano vulcani e terremoti, vedi la dialettica della natura. Fenomeni che sono distruttivi nel breve termine creano le possibilità della vita sul lungo termine perché forniscono dei materiali utili alla vita nel breve e riciclano la CO2 nell'atmosfera, la imprigionano nelle rocce, per esempio, creando un feedback positivo. E quindi per questi alcuni di questi motivi che ho detto in fretta sinteticamente, lo ritengo un progetto, potremmo andarci, studiare, forse fare qualche colonia, Ma già viaggiare per 6 mesi nello spazio senza la nostra atmosfera vuol dire, si prevede che la metà degli astronauti che vanno su Marte muoiono prima ancora di tornare, perché i raggi cosmici li devasteranno così a lungo nel cosmo, nello spazio interplanetario. Bisogna trovare delle soluzioni che al momento io non conosco. E poi al momento non è l'obiettivo, se parliamo anche soltanto di ricerca scientifica, io convoglierei tutte quelle risorse, intelligenze, in altre direzioni molto più interessanti, molto più promettenti. Quindi non è che è proibito sognare a lungo termine, ma siccome parliamo proprio di decidere in quale direzione andare, e le risorse sono limitate, ecco, molto più interessante per me, secondo me, dal punto di vista scientifico, lascia stare le applicazioni militari, eccetera, tornare sulla Luna e creare delle basi permanenti sulla Luna, costruire un telescopio sul lato oscuro, sul lato nascosto della Luna, lontano, per indagare ancora di più lo spazio profondo. La Luna è molto più promettente da questo punto di vista perché ha basi stabili, permanenti. La terraformazione di Marte, anche avviandola, ci vorrebbero millenni. E, ti ho detto, le dimensioni di Marte mi rendono molto molto scettico sulla sua effettiva possibilità. Grazie. Dimmi. Allora, prima accennato agli wormhole, parlando di come ipoteticamente se esistessero sarebbero, sì, parlando di tempo, sarebbero il nostro modo migliore di spostarci in altri sistemi eventualmente. Ma considerando che la teoria degli wormhole è legata alla teoria dei buchi neri e degli ipotetici buchi bianchi, non ci sarebbe, sì, il problema della spaghettificazione in teoria? Della? Spaghettificazione. Sì, spaghettificazione. Quello c'è anche senza i buchi bianchi. Allora, prima, buchi bianchi per dire... l'ingresso di un wormhole potrebbe essere un buco nero, l'uscita un buco bianco, per semplificare, ok? Questo è un campo di ricerca più del mio amico Rovelli che mio. Però è questa l'idea di base. Però non abbiamo nessuna prova empirica che esistano i buchi bianchi. La spaghettification è un termine scientifico, matematico, che descrive il modo in cui voi morireste se quando verrete attratti da un buco nero, diciamo così, per capire... il buco nero è una regione molto compatta dello spazio-tempo, quindi immaginate che sia grande come questo microfono, ok? Se tutta la massa del Sole, della Terra, fosse compattata in pochi centimetri di diametro, sarebbe un buco nero. Quindi tutta la massa della Terra qui dentro, buco nero. Mentre voi cadete all'impiedi, qui i piedi e sopra la testa, cosa succede? Che i vostri piedi sono vicinissimi al buco nero. La testa più lontana, e c'è una grande siccome il buco nero è compatto, c'è una grande differenza di forza gravitazionale fra i piedi e la testa. Anche questo potete calcolarlo con la legge di Newton, banalmente. Ok? F uguale G, M1, M2, R4. Calcolate così la forza gravitazionale che subiscono i vostri piedi che stanno vicino a un centimetro da buco nero, la testa che sta a 2 metri a buco nero. È così in testa che voi verrete sfilacciati. E quindi snap, divisi a metà. E mano a mano che cadete, snap, snap, snap, vedete sempre allungati e divisi sempre a metà. E quindi vedete allungati come uno spaghetto. E la cosa atroce è spezzato, come non si dovrebbero fare gli spaghetti, no? E quindi questo è un termine che, ironico, divertente, ma usato nei teoremi di matematica di relatività generale. Ok, quindi quello, ecco, quindi tu stai sottolineando, cioè, ammesso pure che esistono, ci devo entrare là dentro e per entrarci mi spaghettifico. E chi mi e poi devo uscire, chi mi ricombina dall'altra parte? Devono trasmettere fighetti. Al limite uno potrebbe pensare Star Trek più o meno, no? Il teletrasporto. Allora, se io ti smolecolizzo, no? Che non so se esiste, però mi piace, smolecolarizzare, ti riduco in tutte le molecole, però nel farlo vedo come sei fatto e mi costruisco il libretto di istruzioni come sei fatto. Scusami, come ti chiami? Logan. Luca. Logan. Logar. Il tuo libretto individuale di istruzioni, dove ogni singola molecola ha posto giusto, no? Teoricamente si potrebbe fare, teoricamente poi non... E poi non ho bisogno di trasportare le tue molecole, perché le tue molecole stanno già su Marte o su Alfa Centauri, è la stessa tavola periodica. Però dico, prendete tot atomi di ossigeno, idrogeno, eccetera, e se, trasmetto solo via onde radio il libretto di istruzioni e di là ti ricostruisco. Questo sì, questo teletrasporto secondo me già è un pochino più fattibile, in cui trasmetto le istruzioni con cui tu sei fatto e ne trasmettere anche le memorie che sono impresse biochimicamente nella mia testa, quindi se vuoi la tua personalità. Lì poi il grande dibattito che scateneremo con i filosofi in sala, sto ricreando un tuo clone, la tua identità cos'è, eccetera. Dov'è il tuo spirito? Ah, questo è interessante, quelle discussioni che mi piace attizzare e poi scappare. Allora, qualche giorno fa si è sentito che è stato registrato un neutrino ad altissima energia nell'osservatorio sottomarino al largo della Sicilia, no? Sì. E guardando dei video su YouTube ci hanno detto che noi praticamente siamo continuamente bombardati da questi neutrini, no? Allora, una cosa che non ho capito bene è come un neutrino che è infinitesimale, molto piccolo, possa avere un'energia così grande. E poi l'altra domanda è se, siccome siamo bombardati da questi neutrini, possono anche arrecarci danno alla salute. Sì, sì. Ecco, questa è un po' la domanda. Sì, grazie. Sì, prego. I neutrini sono particelle molto elusive. La maggior parte dei neutrini ci attraversa letteralmente il nostro corpo senza mai interagire con nessun atomo del nostro corpo, proprio perché interagiscono molto poco con la materia. La maggior parte dei neutrini attraversa l'intera sfera terrestre senza interagire nemmeno con il nucleo denso della Terra. Quindi trovare questo neutrino vuol dire che in realtà ce ne sono molti di più, perché per uno che ne vedi, miliardi di altri ti sfuggono. Non so i numeri precisi perché non è il mio campo di ricerca propriamente detto. Però l'energia deriva dal fatto che comunque ha una massa, non sappiamo quanta, ma probabilmente era una massa non zero. E quindi se accelerate a velocità prossime a quelle della luce, non potranno mai viaggiare alla velocità della luce, possono avere anche grande energia. Quindi diciamo compensi con l'energia cinetica, per parlare per concetti. Anche se le formule di un mezzo mv quadro non valgono più a quelle velocità, perché sono velocità prossime a quelle della luce. Quindi piccola massa compensata dalla grande velocità. Quello è il punto. Sono pericolosi per la salute? No. Sì e no. Cioè, non i neutrini. Però i raggi cosmici, sì, nel senso, non è che mi colpisce un raggio cosmico e mi fa male. La nostra atmosfera ci protegge, il nostro campo magnetico ci protegge, ma alcuni arrivano, sono rari. Ci sono una rete di rivelatori di particelle in Patagonia, dove i miei colleghi vanno, il progetto che si chiama Auger, Auger scritto, rivelano queste particelle cariche ad alta quota. È un'ipotesi che, ad esempio, l'evoluzione darwiniana, come nasce? Nasce da modifiche casuali, randomiche, dei codici genetico. Magari una parte potrebbe essere indotta non soltanto dagli errori di riproduzione nel passaggio da padre in figlio, no? Nella generazione cellulare, ma anche dall'interazione con l'ambiente, ad esempio i raggi cosmici, potrebbero essere un'origine della variabilità del DNA, su cui la natura poi lavora con la sua selezione. Quindi anche quello è un aspetto, se vuoi, dialettico della natura, oggetti misteriosi, sconosciuti, ad alte energie che però sono funzionali alla vita, là per là sembrano dannosi. E infatti il problema dei raggi cosmici, se vai su Marte dove non sei protetto, è che la tale quantità di radiazione cosmica che ricevi, compresi i raggi ultravioletti, perché non c'è ozono che ti protegge su Marte, modificano talmente tanto il tuo DNA che scateni tumori. Nel breve termine quello, sulla Terra no, non scateni tumori, non i raggi cosmici, no. Sì. Questa è più bella. C'è allora, una domanda? Sì, sono qua. Allora, prima ha detto che sono stato in programma. Non ti vedo, ti alzi in piedi. Ah, ti ho perso. Prima ha detto perché sono in programma varie missioni, sì. Ma ciascuna di queste missioni lascia comunque dei detriti nella nostra nella nostra orbita. Pensa che trovare una soluzione per magari spostare o cercare di togliere questi detriti dalla nostra orbita, insomma tutta questa spazzatura. Non ho capito la parola, critiche? Detriti. Detriti, quindi sì. Diciamo tutta questa spazzatura spaziale, sì. Pensa sia una priorità o che... È una priorità, è una priorità. Sia una cosa... Se vogliamo, è una priorità trascurata. Se vogliamo viaggiare tra le stelle, stiamo inquinando anche la bassa orbita terrestre. Oltre a usarla per scopi militari e commerciali, non solo scientifici, la stiamo anche affollando eccessivamente. E infatti gli aspetti negativi di questa rete di satelliti artificiali, cominciato Elon Musk con Starlink, ne ha mandati già 7.000 in orbita, forse ne vuole mandare altri 7.000. Il problema è che uno ogni tanto di quelli si guasta, urta qualcun altro e crea a cascata una grande quantità di detriti. Qualche incidente già c'è stato del genere, in cui la stazione spaziale è stata colpita da qualche bullone vagante, per esempio. Quindi a regime, nel giro di non molti decenni, di 30-40 anni, la bassa orbita terrestre, che è quella dove abbiamo la maggior parte degli strumenti, dei telescopi, potrebbe essere così affollata di detriti da rendere pericoloso, se non impossibile, aggiungere altri satelliti o attraversarla. Quindi è un rischio concreto, di cui si parla poco. Non solo, ma la maggior parte di questi, molti di questi detriti ricadono sulla Terra, inquinandola a sua volta. Qualche settimana fa c'era lo spettacolare caduta al Scia. Sono fatti di metalli inquinanti anche molti di questi oggetti. Quindi questo è un altro dei motivi per cui tu vorresti una regolamentazione internazionale, una legge internazionale dello spazio. Ma ci sarà già la legge internazionale per la salvaguardia degli oceani, che non hanno tutti quegli effetti sulla Terra. Ma lì è ancora peggio il Far West. Quello è un altro dei motivi per cui l'iniziativa di un singolo imprenditore, ma anche intere nazioni, perché l'Unione Europea si sta muovendo in quella direzione, lo sta facendo la Cina, ognuno di loro vuole mandare 10.000 satelliti. C'è una crescita esponenziale dei lanci spaziali in questi anni, senza considerazione che l'universo, la bassa orbita terrestre è grande in volume, ma non infinita. Quindi quello sì è un grande problema. E sarebbe triste essere pronti a viaggiare fra le stelle e poi chiudersi in una gabbia metallica come hanno i polli di allevamento, letteralmente. Letteralmente. Già adesso, anche nei cieli più bui, quando fai una foto astronomica, vedi strisciate di tanti satelliti. Prima una volta uno ogni tanto, simpatica. Una traccia dell'uomo. C'è un'app che vi dice quando passa la stazione spaziale internazionale. Una volta ogni tanto, 2-3 volte a mese, passerà anche su Pistoia, e potete guardarla e vedete questa stella, quest'altro astro luminosissimo che attraversa da un orizzonte all'altro la volta celeste, molto più luminosa di qualunque astro, se sapete guardarla, se cercate sul web gli orari, ed è bellissimo, cioè sapere che è lì a 400 km d'altezza, quindi non tanto lontano, lì ci sono nostri simili che lavorano, fanno esperimenti e vedono voi giù, è molto bello anche. Però se fosse riempito così da 10.000 di quelli sarebbe un problema anche ecologico. C'è un ragazzo con la barba bianca. Sì, sì, c'è, sì. Lei per caso crede nella teoria dei multiversi? No, no. Perché proprio devi usare la parola credere. E in scienza noi cerchiamo di non usare la parola credere, cerchiamo di dire hai prove o no. O addirittura hai le possibilità di una prova empirica? I multiversi sarebbero universi paralleli che per definizione non interagiscono col tuo. Nella fantascienza vengono sempre usati perché salti da un universo all'altro, eccetera. Però in quelle teorie della fisica dove viene postulata questa idea, sarebbero regioni dello spazio-tempo che non comunicano e interferiscono con la tua. Quindi se questa è la definizione di multiuniverso, multiverso, allora se non interagisce con me è fuori dall'indagine fisica. Fisica vuol dire physis, natura, capacità di sperimentare in modo diretto. Ecco, mi sembra più metafisica matematica, dico così quando voglio far arrabbiare i colleghi di teoria delle stringhe. Io non posso crederci, ma già l'uso della parola credere perché l'unica cosa che puoi usare in quel senso lì, non puoi dire ho pensato questo esperimento difficile ma fattibile per verificare l'idea del multiverso. Se una regione dello spazio-tempo inaccessibile a noi è fuori dal campo dell'indagine fisica, non è nemmeno, non puoi dire nemmeno che è sbagliata come idea. Capito? E la fisica è un modo di procedere per cui le tue affermazioni vuoi cercare di verificarle nella pratica, materialmente, in laboratorio, al telescopio, eccetera. È diverso dal problema dell'origine dell'universo, Big Bang, perché lì è speriamo di avere un giorno una teoria matematica che descriva quello, speriamo di avere un giorno un acceleratore di particelle che ricrei nel piccolo condizioni simili, speriamo di avere un giorno un'idea di vuoto soddisfacente dal punto di vista empirico e matematico. Il multiuniverso, ecco, credo che sia una fantasia matematica, che poi non c'è manco una sola definizione, eh. Esiste quella che viene dalla meccanica quantistica, dalla teoria delle stringhe, e quando ci sono tante opzioni in realtà c'è poco di concreto. Quindi su quello sono molto scettico. E se ti interessa questo tema, scrissi qualche anno fa un articolo con un amico filosofo in difesa del metodo scientifico, perché alcune di queste speculazioni mi sembravano anche pericolose come un attacco al metodo scientifico. Se ti interessa mi scrivi un mail o un messaggio in chat e ti mando l'articolo. Io sono il ragazzo con la barba bianca. Ciao. Volevo tornare un po' sul discorso dell'individuazione delle pianeti intorno a altri soli. Il caso che, avvicina il microfono. Sì, il caso che un pianeta, cioè il piano delle orbite dei pianeti sia non nella nostra direzione, ma ortogonale a noi. Come si fa a individuare? Ci sono altri metodi complementari. Ad esempio, un metodo è quello osservare le stelle e danzare, ballare. Perché, come sapete, i ragazzi che hanno fatto fisica, vale il terzo principio della dinamica di Newton. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Il Sole attira la Terra, ma anche la Terra attira il Sole, con la stessa forza. Ma l'effetto è diverso. Il Sole è più massivo e reagisce di meno. Quindi è vero che la Terra gira... La Terra non gira intorno al Sole, ma la Terra e il Sole insieme girano intorno al centro di massa comune. Quindi, se io fossi... Ovviamente l'orbita del Sole è molto più piccola e più lenta. Cioè, sempre un anno, ma meno veloce. Quindi, se io vedo... Se un astronomo vedesse il Sole viaggiare intorno a un centro che non è il suo centro geometrico, capirebbe che il Sole sta danzando con un compagno invisibile. E quindi quando vediamo, anzi questo è il proprio metodo che hanno usato per scoprire i primi pianeti. Se tu fai la spettroscopia che è basata sull'effetto Doppler, che pure è noto ai ragazzi in sala, ma anche a noi meno ragazzi, l'abbiamo tutti studiato, vedi queste stelle oscillare avanti e indietro, verso di te, e quindi capisci che hanno un compagno invisibile. E dall'intensità di queste oscillazioni capisci tante cose, capisci la massa, il periodo, la distanza pianeta-stella. Quindi questo è un altro metodo, per esempio. Quindi abbiamo diversi metodi, questo è uno dei più promettenti, complementari. Ancora non c'è il metodo perfetto. Cosa direbbe a uno studente medio per incentivarlo a iscriversi alla facoltà di fisica? Cosa posso dire? Io in genere cerco di non dare, di incentivare a scegliere una strada o un'altra. Sono un po' refrattario a questo. Però se mi chiedessero posso iscrivermi o... Ad esempio, se lo studente fosse incerto perché dice non sono bravo abbastanza, allora no, ti devi iscrivere. Perché basta essere determinato, ostinato. Se ti piace ci riesci, puoi riuscirci. Ok? Assolutamente, non devi autolimitarti. Poi è un periodo della tua vita in cui è difficile capire cosa vuoi fare veramente da grande. E magari incominci a fisica, poi magari scopri che è più adatta a te la matematica o l'ingegneria e cambi. Poco danno, gli esami te li convalidano, per esempio. O fai il percorso inverso. Quanti ingegneri vengono da noi dopo la triennale, per esempio. Però certamente, più che incoraggiarlo, vorrei soprattutto a scegliere fisica, a non essere demotivati perché spesso i ragazzi, a volte le ragazze ancora di più, Uno dei motivi perché le ragazze sono meno propense ad affrontare percorsi sulla carta più difficili, sulla carta, perché filosofia fatta bene è anch'essa molto impegnativa, è l'eccessiva autocritica, che sia molto a 17-18 anni, è auto, come dire, diciamo, non ti valuti abbastanza. Quindi questo no, incoraggiare ad avere fiducia in se stessi, assolutamente. Poi dal punto di vista pratico, sì, gli studenti che si sono laureati nel mio dipartimento, degli studenti bravi che hanno voglia di fare, sanno anche un po' di inglese, nessuno è disoccupato. Cioè la fisica ti offre le stesse chance in questo momento sul mercato del lavoro che offre i matematici e gli ingegneri. Anzi, per me la fisica era congeniale a me perché mi ha lasciato molta flessibilità, un orizzonte culturale più ampio rispetto agli ingegneri che hanno già una specializzazione ben definita. Quindi un piccolo vantaggio che rispetto agli ingegneri che sono già elettronici, informatici, eccetera, un fisico è più in grado di cavalcare le nuove onde di progresso tecnologico, proprio perché non si è concentrato subito su quello che adesso vale, quello che adesso c'è di moda. E quindi ha più una preparazione di base ampia, con strumenti più ampi, in grado di tenerlo preparato alle cose sorprendenti che ci saranno, che verranno. Quindi questo è un piccolo vantaggio che ha. Quindi questa ritardare la specializzazione al quinto anno, questo orizzonte culturale ampio, questa solida base matematica, secondo me sono un'arma in più rispetto agli ingegneri, se devo dire proprio fare concorrenza al Dipartimento di Ingegneria. Però in genere il mio atteggiamento è quello di ascoltare i ragazzi e capire di cosa ha paura, perché in realtà quando fai questa domanda sei insicuro della tua scelta, non sai se scegliere quello che piace a te, quello che dicono mamma e papà, eccetera, o perché non ti valuti abbastanza bravo. E quindi smontare le sue paure è quello che cerco di fare quando un ragazzo più giovane di te mi fa la domanda. Grazie, grazie per la domanda. Scusi, sì. Io volevo fare una domanda ritornando ai buchi neri. Sì. C'era stata prima la domanda che dicevano che la maggior parte dei buchi neri, se un corpo entrava dentro uno di essi, causava la spaghettificazione, ma da quel che so non tutti i buchi neri causano spaghettificazione. Ma c'è un motivo preciso? No, no, in realtà tutti. Nel senso, paradossalmente, più compatto è il buco nero, meno massivo è, più l'effetto di spaghettificazione è importante, perché essendo più compatto la variazione di campo gravitazionale è più evidente. Quindi un buco nero enorme, come quello al centro della galassia, è più lento nello spaghettificare, anche se il campo gravitazionale in totale è più intenso. Ma quello che è importante è la variazione di campo gravitazionale. No, tutti... noi ancora non l'abbiamo osservato in diretta, da vicino, un singolo corpo spaghettificato, però abbiamo visto stelle, il residuo di stelle intorno a buchi neri, sono sfilacciate, ridotte a gas, molecole, e perché hanno attraversato questa fase di distorsione e sono rimaste in orbita. Quello che vediamo, perché se fossero entrate dentro non le vedremo più. Quindi è diverso da buco nero a buco nero in intensità, ma il fenomeno alla base c'è sempre. Grazie. Allora, penso, dobbiamo chiudere, però io rimango qua in sala, se ci sono altre domande, figuriamoci. Ci dicono che il tempo è giunto, non so se vuole aggiungere qualcosa. Io devo solo ringraziare per la grande opportunità data ai miei studenti, veramente grazie perché è stata una prolusione interessantissima. Grazie a lei e grazie ai ragazzi per le domande, perché questa è la parte più bella dei nostri incontri, grazie. Bene, a voi. Allora, grazie a tutti. Grazie Francesco. E buona giornata. Grazie, prof.